Arrivo buono buono spingendo il mio carrello alla cassa del supermarket, dispongo gli articoli della spesa sull'apposito nastro, aspetto che il cliente che mi precede abbia pagato, di solito chissà perché i clienti che mi precedono pagano col bancomat o con qualsiasi altra procedura atta a far perdere una quantità di tempo e a farmi rammaricare di non aver scelto un'altra fila, e sorrido alla cassiera, la quale ricambia gentile il sorriso e mi chiede se ho la tessera. Questa domanda una volta mi metteva in agitazione. Non capivo di che tessera si trattasse e mi chiedevo se per caso le autorità non avessero istituito a mia insaputa una forma di razionamento annonario. Con i tempi che corrono non ci sarebbe da stupirsi. Poi mi hanno spiegato che in quella richiesta non c'è nulla di ufficiale. Le tessere del supermarket, le tessere perché ogni catena ha la sua, sono il portato di un'iniziativa promozionale delle singole imprese, volta a garantirsi in un certo senso a premiare la fedeltà della clientela. E richiedendo la tessera all'apposito sportello, il consumatore avrà la possibilità di vedervi registrati i suoi acquisti elettronicamente, perché è uno dei soliti rettangolini di plastica con una banda magnetica, il che col tempo gli frutterà sontuosi regali, sconti da capogiro e altre agevolazioni. È un po' la variante tecnologica delle vecchie cartoline per la raccolta dei bollini punto, o a livello di piccola distribuzione dello zampone natalizio che una volta i salumieri riservavano in omaggio ai clienti affezionati. Niente di politicamente preoccupante o ideologicamente sconvenevole. Eppure io che la tessera non ce l'ho, rispondo alla domanda della cassiera con un certo inspiegabile senso di colpa, o come l'impressione che la brava donna debba redarguirmi e debba chiedermi se non mi vergogno a essere così riottoso e perché non mi decido a farla quella benedetta tessera che non costa niente ed è tanto vantaggiosa. Naturalmente lei non mi dice nulla del genere, immagino che glielo vietino la deontologia professionale e gli ordini dei superiori, ma ciò non toglie che nel mio no s'avverta comunque una sfumatura di disagio, nel suo sguardo io legga una sfumatura di disapprovazione. Eppure, vedete, la tessera del supermarket per un motivo o per l'altro non riesco a risolvermi a farla, e sarà un pregiudizio, immagino. Ai miei tempi avere la tessera significava appartenere a qualche organizzazione, e ad appartenere a qualche organizzazione con gli anni sono diventato sempre più riluttante. In giovinezza non lo nego, ho aderito a qualche struttura politica, ma sarà stato un caso. Erano sempre delle organizzazioni troppo approssimative per poter stampare delle tessere da distribuire ai loro aderenti. Non faccio parte di club o di associazioni, dalla tessera di Radio Popolare mi considero esonerato in virtù del mio status di collaboratore. Al cinema ci vado troppo di rado per aver bisogno della tessera Agis, e mi sembra in definitiva che di tessere magnetiche nel portafoglio bastino e avanzino quelle obbligatorie. Il codice fiscale, ahimè, presto se ho ben capito quello sanitario, o quelle come la carta di credito di cui con tutta la buona volontà non è possibile fare a meno. Anche perché, a pensarci bene, le moderne tessere magnetiche non servono affatto a indicare un'appartenenza, come i vecchi documenti in cartoncino che certificavano l'adesione del titolare alla tal bocciofila o alla tale organizzazione rivoluzionaria. La loro peculiarità tecnologica consiste nella possibilità di registrarvi dei dati che altri, mediante appositi diapositivi, potranno leggere, come si dice, gestire. E la futura tessera sanitaria che ci ha promesso la Rosa Bindi conterrà tutte le possibili informazioni sanitarie sul nostro conto: malattie sofferte, terapie subite e chissà cosa d'altro. Le carte di credito sono state inventate apposta per registrare da qualche parte gli acquisti che fai quando le utilizzi. Con il che, già che ci sono, registrano una quantità di dati accessori, per esempio il luogo in cui ti trovi quando fai l'acquisto. Ad analoga funzione, su scala diversa, senza neanche darti la soddisfazione di differire l'esborso, adempie la tessera del supermarket. Per un motivo o per l'altro cresce sempre di più il numero delle persone che sanno su di te un mucchio di cose. Sanno dove eri nel tal giorno, alla tal ora, che medicine assumi, che cosa compri di solito, dove vai in vacanza, e che più ne ha più ne metta. In un'età in cui si elaborano complessi strumenti legislativi per garantire la privacy dei cittadini, e di privato ci resta ben poco. Tanto è vero che l'effetto principale che hanno avuto quegli strumenti sulla nostra vita di tutti i giorni è stato quello di costringerci a firmare una quantità di autorizzazioni a ignorarli. Basterebbe unificare tutte le banche dati disponibili, che tecnologicamente è quanto di più semplice si possa immaginare, per poter avere su chiunque una gamma di dati davvero ampia. Che la raccolta e la gestione di informazioni del genere rappresenti in qualche modo una forma di controllo sociale è un'ovvietà di cui siamo a conoscenza tutti. Prima e dopo il 1984 di Orwell sono state pubblicate decine di libri e pamphlet in cui i caratteri oppressivi di una società fondata sull'informazione totale erano efficacemente descritti. Ma naturalmente quegli autori tendevano ad attribuire una strutturazione sociale del genere a un progetto unitario messo in opera da qualcuno, alla volontà di qualche ingegnoso aspirante oppressore, che una forma di controllo globale o quasi potesse generarsi spontaneamente per sommatoria di singoli progetti parziali, in buona parte innocui come quelli dei supermarket, o addirittura benefici come quelli sanitari, non era, che io sappia, venuto in mente a nessuno. La realtà evidentemente supera la fantasia. Che volete che vi dica? Io non credo allo stato che sia possibile far molto per invertire questa tendenza. Mi rendo anche conto che rifiutare la tessera del supermarket non significa niente, è un gesto dal valore simbolico, affatto irrisorio, ma insomma, da qualche parte bisogna pur cominciare. Il principio base in questi casi è sempre lo stesso: non offritevi mai volontari.